Allora, siamo di nuovo in diretta con Piazza San Giovanni e sentiamo gli aggiornamenti che ci sono dalla piazza. Sei in onda. Ciao a tutte e tutti, in questo momento ce ne siamo andati e abbiamo concluso, siamo arrivati fin dove era possibile arrivare, insomma, per chi non ha sentito la corrispondenza precedente, ci siamo spinti fino quasi sotto il palco con uno striscione che recitava senza, con questi contratti nessuna sicurezza, come collettivo dell'operaio dello spettacolo, e poi siamo stati un paio d'ore lì, insomma. Senti, nessun invito dal palco, nessun segnale? No, anzi, cioè, sono andati avanti senza nessuna preoccupazione, hanno provato a dirci forse adesso vediamo, salite, fate un intervento, però insomma lasciavano un po' il tempo che trovavano, anche perché nei giorni precedenti avevamo avuto contatti con la direzione artistica che ci ha detto assolutamente che nessun intervento era possibile perché i sindacati non vogliono, perché altrimenti dovrebbero parlare tutti quanti. Quindi loro per linea, per scelta, ci hanno comunicato questa cosa, che nessun intervento è concordabile. Okay. Quindi sapendo questa cosa, noi abbiamo, cosa molto positiva, i lavoratori che erano lì nella torretta, diciamo, della regia, che è quella che sta di fronte al palco, hanno preso i rimanenti due striscioni che avevamo portato e li hanno appesi, uno solo col nome del collettivo, l'altro invece, che era appunto sui discorsi delle morti sul lavoro, che recitava 1400 morti all'anno, una repubblica fondata sulla strage. Questo è stato messo proprio di fronte al palco e quindi chiunque sì, arriva sul palco l'hanno visto. È stato ben visibile, stato anche in TV, visto, insomma, sì. E la piazza, insomma, i presenti, insomma. Sì, le persone vicino, abbiamo parlato e abbiamo comunicato perché stavamo lì, ovviamente con la difficoltà di dover competere con un'amplificazione disumana. Certo. Anzi, quest'anno direi, rispetto a anni precedenti, l'esperienza anche meno potente degli altri anni. E niente, quindi siamo stati lì fino a mezz'ora fa e poi ce ne siamo andati, insomma. Ho capito. Vabbè. E senti, altre iniziative nei prossimi giorni ce ne avete in programma, oppure sapete, non necessariamente a Roma, in altre parti, insomma? Oddio, questo non lo sappiamo, sicuramente le nostre riunioni che continuano. Adesso comincia la stagione dei concerti, quindi penso, esatto, che ci sarà. Chiunque di noi girerà per l'Italia, si cercherà di aumentare il dibattito, perché poi è questo che conta, perché proprio la deframmentazione di questo lavoro, ci si ha tempo di poterne parlare quando si riesce sul lavoro, con tutte le difficoltà del caso, perché i tempi sono strettissimi, perché anche quest'anno che hanno fatto questo concertone il 1° maggio, a leggere le dichiarazioni dicevano appunto che non si sarebbe lavorato di notte. E invece è successo. Qualcuno di noi è passato, ci ha lavorato, e se le 9 di sera, le 10 di sera non è considerato notte, io non so come considerarla diversamente. Quindi hanno lavorato. Sì, sì, ma insomma poi veniva fuori che ci sono voluti solo, hanno cominciato il 28 a montarlo, quindi l'hanno montato in 2 giorni, quindi... L'hanno iniziato anche prima in realtà, loro hanno iniziato prima chiedendo le autorizzazioni al comune... Certo, tutta quella l'iter autorizzativo... No, hanno iniziato anche prima degli anni, le altre volte, il problema è che si è visto forse qui entrerei molto nello specifico, però hanno ritardato di parecchio tutta una fase preparatoria, che altre volte si arriva sul cantiere con già la fase preparatoria già fatta. E invece poi, questa volta hanno fatto, certo, una fase preparatoria in cantiere. Chi è passato e c'aveva un attimo di occhio, anche se fosse stato lunedì, l'avrebbe visto che il cantiere era un caos totale. E quindi, poi comunque c'è lo smontaggio adesso, no? Che adesso c'è lo smontaggio e vedremo. Loro dicono che hanno rispettato tutti i tempi e dovrebbero iniziare da domani, quindi stasera non dovrebbero smontare niente come normalmente accadeva. E poi fino al 5 dovrebbero smontare, quindi sarebbero tempi anche abbastanza umani per uno smontaggio, abbastanza. Certo. Vedremo come si comporteranno. E comunque, insomma, ci sarà da vedere anche come riporteranno, se la riporteranno la notizia i media domani, non escono poi tra l'altro, quindi bisognerà aspettare dopodomani. Quindi siccome già abbiamo visto che sui vari aggiornamenti dei siti dei grandi organi di informazione notizie non c'era nessun riferimento a questa vostra iniziativa, insomma c'è da pensare che domani c'è il blackout dell'informazione, un po' salvo quella televisiva, quindi sarà difficile avere spazio, insomma, quindi si conferma la difficoltà di bucare, come si dice, il video, bucare l'informazione, insomma, essere presenti. Se non stai sui cosi non esisti, come si dice, no? E certo. E questo è il solito problema. Però già che ci dite, insomma, che da certo, comunque la piazza va visto e la diretta non ha potuto fare a meno di inquadrare perlomeno gli striscioni che erano stati messi, insomma, quindi questo chi ha buoni occhi e anche orecchie per capire dovrebbe aver capito, insomma, che non va tutto bene, insomma. No, esatto. Purtroppo va bene. No.